Capitolo 14. La confessione di Anna. La sera del lunedì prima del picnic, Marilla, scura in volto, scese dalla sua camera in cucina. Anna, chiamò la bambina che stava sgusciando i piselli accanto al tavolo lucido e pulitissimo, cantando con entusiasmo Nelly della Valle dei Noccioli. Per caso hai visto in giro la mia spilla di ametiste? Mi sembrava di averla infilata nei puntaspilli ieri pomeriggio, quando sono tornata dalla chiesa, ma non la trovo più. Sì, l'ho vista oggi quando sei andata alla riunione del gruppo di assistenza parrocchiale, rispose Anna lentamente. Sono passata davanti alla porta della tua camera, l'ho vista sul cuscinetto e sono entrata per guardarla meglio. E l'hai toccata? Volle sapere Marilla accigliata. Sì, ammise la bambina. L'ho presa un attimo e me la sono appuntata sul vestito per vedere come mi stava. Non dovevi farlo. Nel modo più assoluto, non sta né in cielo né in terra che una bambina frughi fra le cose degli altri. Tanto per cominciare, non dovevi entrare in camera mia. Secondo, non avresti dovuto toccare la spilla che non ti appartiene. Dove l'hai messa? L'ho rimessa al suo posto. Non l'ho tenuta addosso nemmeno un minuto. Sul serio, Marilla, non volevo frugare fra le tue cose. Non pensavo che fosse una cosa sbagliata entrare in camera tua e provare la spilla. Invece adesso capisco che lo era e non lo farò mai più. Questo è uno dei miei pregi. Non faccio mai due volte lo stesso errore. Non l'hai rimessa al suo posto, replicò Marilla, perché sul cassettone non c'è. L'hai presa tu, Anna? Io l'ho rimessa al suo posto, ribatté Anna pronta. È sfacciata, pensò Marilla. Solo che non mi ricordo se l'ho rimessa nel puntaspigli o se l'ho appoggiata sul piattino di porcellana, ma sono assolutamente certa di averla rimessa in ordine. Va bene, vado a controllare di nuovo, disse Marilla, determinata a essere giusta. Se davvero l'hai rimessa al suo posto, allora deve essere ancora lì, ma se non c'è, saprò per certo che non l'hai fatto, e questo è quanto. Marilla risalì in camera ed eseguì un'accurata ricerca non solo sul cassettone, ma in ogni altro angolo in cui poteva essere finita la spilla, ma non la trovò e tornò in cucina. Senti, Anna, la spilla è sparita. Per tua stessa ammissione sei stata l'ultima persona a toccarla. Ora si può sapere cosa ne hai fatto, dimmi subito la verità. L'hai portata fuori e l'hai persa per caso? No, rispose Anna, calma e solenne, sostenendo senza problemi lo sguardo rabbioso di Marilla. Non ho mai portato fuori la spilla, fuori dalla tua camera, e questa è la verità, e puoi mettermi ai ceppi se vuoi, anche se non so di preciso cosa siano. Questo è quanto, Marilla. Con quella conclusione Anna voleva soltanto enfatizzare l'affermazione, ma Marilla la interpretò come un gesto di sfida. Credo che tu mi stia dicendo una bugia, Anna, dichiarò tagliente. Lo so, quindi ti prego di non aggiungere una parola finché non ti sarai decisa a raccontarmi tutta la verità. Vai in camera tua e restaci fino a quando non sarai pronta a confessare. Devo portare i piselli? Chiese mesta la bambina. No, finisco io di sbucciarli. Avanti, ubbidisci. Quando Anna si fu allontanata, Marilla continuò a svolgere le sue faccende serali con animo tormentato dall'inquietudine. Era preoccupata per la sua preziosa spilla. E se Anna l'aveva perduta davvero? Che brutta cosa negare di averla persa, quando chiunque avrebbe capito che poteva essere stata solo lei. E con che faccia di bronzo? Va a capire cosa è successo. Ma prima o poi doveva capitare qualcosa del genere, pensò Marilla sgusciando i piselli con movimenti nervosi. Lo so che non aveva intenzione di rubarla. L'avrà soltanto presa per giocare o per rendere più reali le sue fantasie. L'ha presa, poco ma sicuro, perché in camera mia dopo di lei non è passata anima viva, cosa che d'altronde ha confermato anche Anna, fino a stasera quando sono salita io. Fatto sta che la spilla è sparita, su questo non c'è dubbio. Suppongo che l'abbia perduta e non voglia ammetterlo per paura della punizione, però è davvero una cosa orribile pensare che dica bugie in questo modo. È un difetto ben peggiore del suo caratterino. È una responsabilità tremenda avere in casa una bambina di cui non ci si può fidare. Falsa e bugiarda. Così ha dimostrato di essere. E mi tocca riconoscere che sono quasi più addolorata per questo che per la spilla. Se mi avesse detto subito la verità, non ci sarei rimasta tanto male. Nel corso della serata Marilla tornò più di una volta in camera a cercare la spilla, sempre senza trovarla. all'ora di andare a dormire. Una nuova visita in mansarda fu tempo perso. Anna insisteva a sostenere di non sapere niente della spilla e la donna si convinse ancora di più che invece ne sapeva parecchio. Il mattino dopo, Marilla raccontò tutto al fratello. Matthew l'ascoltò con aria perplessa. Non poteva perdere tutto d'un colpo la fiducia che nutriva per Anna, ma le circostanze erano senza dubbio a sfavore della bambina. Sei proprio sicura che la spilla non sia caduta dietro il cassettone? Fu la sua unica osservazione. L'ho spostato, ho sfilato tutti i cassetti, ho guardato in ogni angolo e in ogni fessura. Fu la brusca risposta di Marilla. La spilla è sparita. L'ha presa la bambina, che adesso dice un'enorme bugia. Questa è la verità nuda e cruda, Matthew Cuthbert. Ed è meglio affrontarla a viso aperto. Beh, ecco, cosa vorresti fare? Le chiese sconsolato il fratello, segretamente sollevato che toccasse a Marilla e non a lui gestire quella situazione così scomoda. Non si segnava neanche lontanamente di interferire. Anna resterà in camera sua finché non confesserà la verità, lo informò la sorella accigliata. Ricordava bene il successo ottenuto con quel metodo nella precedente occasione. Poi decideremo cosa fare. Se solo confessasse dove l'ha portata, magari riusciremo anche a ritrovare la spilla. In ogni caso, la bambina deve essere punita, Matthew. Beh, ecco, questa incombenza tocca a te, replicò lui, allungando la mano per prendere il cappello. Io non devo immischiarmi in queste faccende, me l'hai chiesto tu, ricordi? Marilla si sentì abbandonata da tutti. Non poteva neppure andare a domandare consiglio alla signora Lind. Immusonita. Salì nella cameretta e ne ridiscese con un'espressione ancora più cupa. Anna si rifiutava di confessare e continuava a negare di aver preso la spilla. Aveva pianto, si vedeva, e quando se ne accorse Marilla provò una pena che represse con durezza. Ora di sera lo ammise anche lei, era veramente provata. Starai chiusa in camera tua finché non confesserai, Anna, puoi starne certa, concluse prima di andarsene. Ma domani c'è il picnic, strillò la bambina. Non vuoi impedirmi di andarci, vero? Potresti farmi uscire solo nel pomeriggio, poi resterò qui per tutto il tempo che vorrai senza protestare, ma devo assolutamente partecipare al picnic. Anna, tu non andrai né al picnic né da nessun'altra parte finché non avrai confessato la verità. Oh, Marilla, gemette la bambina senza fiato per la disperazione. Ma la donna era già uscita, chiudendosi la porta alle spalle. Il mattino del mercoledì giunse limpido e terso, come se fosse stato ordinato apposta per una merenda sul prato. Gli uccellini cinguettavano intorno a Green Gables, i gigli della Madonna in giardino emanavano un profumo intenso che penetrava da ogni porta e finestra, e spinto da una lieve brezza si aggirava per l'ingresso e per le stanze come uno spirito benedicente. Le betulle nella valle oscillavano allegre, come mani che salutavano da lontano, quasi stessero aspettando il solito cenno cordiale di Anna dalla sua mansarda. Ma la bambina non si affacciò alla finestra. Quando Marilla le portò la colazione, la trovò seduta sul letto, pallida e risoluta, con le labbra serrate e gli occhi pieni di lacrime. Marilla, ho una confessione da fare. Era ora, esclamò la donna, posando il vassoio. Ancora una volta il suo metodo aveva funzionato, ma quella vittoria era un boccone più amaro del precedente da mandar giù. Ti ascolto, signorina. Ho preso la tua spilla di ametiste, cominciò Anna, come se stesse ripetendo una lezione imparata a memoria. È vero, l'ho presa io, come dicevi tu. Non volevo portarla via quando sono entrata in camera tua, però era così bella che prima me la sono appuntata e poi sono stata presa da una tentazione irresistibile. E ho cominciato a immaginarmi quanto sarebbe stato meraviglioso portarla con me al boschetto dell'ozio e far finta di essere Lady Cordelia Fitzgerald. Sarebbe stato molto più semplice convincersi di essere una gran dama con una spilla di vere pietre preziose. Con Diana intrecciamo collane con le bacche di rosa canina, ma anche se sono belle, non c'è paragone con pietre così meravigliose. Perciò ho preso la spilla e mi ero ripromessa di rimetterla a posto prima che tu tornassi a casa. Ho imboccato la strada lunga per tenerla il più possibile. Mentre attraversavo il ponte del lago delle acque scintillanti, me la sono tolta per guardarla meglio. Oh, Marilla, come brillava sotto i raggi del sole, sapessi, solo che mentre mi sporgevo dal parapetto mi è scappata di mano ed è caduta giù, Giù, giù, tra incantevoli lampi di un bel viola acceso, affondando per sempre nelle acque del lago. E quanto a confessione, questo è il meglio che posso fare. Marilla si sentì travolgere da una rabbia cieca. Quella bambina aveva preso la sua preziosa spilla di ametiste, l'aveva persa e se ne stava lì seduta tranquilla a raccontare i dettagli dell'accaduto come se niente fosse. Anna, è una cosa terribile, mormorò sforzandosi di stare calma. Sei la bambina più cattiva che abbia mai conosciuto. Sì, credo proprio di esserlo, ammise lei imperturbabile, e so che merito una punizione. È tuo preciso dovere punirmi, Marilla. Però, se non ti spiace, potresti farlo subito, perché vorrei partecipare al picnic senza preoccupazioni. Il picnic? Come no, Anna Shirley? Ti informo che oggi non andrai a nessunissimo picnic. Questa è la punizione, e non è neanche la metà di quanto meriti, visto ciò che hai fatto. No, il picnic no. Anna saltò in piedi e le afferrò la mano. Me l'avevi promesso. Oh, Marilla, io devo assolutamente andarci. Per questo ho confessato. Dammi la punizione che vuoi, ma non questa. Oh, ti prego, ti supplico, lasciami andare. Pensa al gelato, potrebbe essere la mia unica occasione di mangiarlo. Ci pensi? Marilla le rivolse uno sguardo gelido e si liberò con uno strattone. Non serve a niente supplicare, Anna. Oggi tu non andrai proprio in nessun posto. Non ho altro da aggiungere. Ho detto no. Smettila di insistere. Anna capì che non sarebbe mai riuscita a convincerla. Giunse le mani al petto, lanciò un urlo acutissimo e si buttò sul letto a pancia in giù, piangendo e contorcendosi come una disperata in una scomposta manifestazione di delusione e tormento. Oh, per l'amor del cielo! Sbottò Marilla uscendo a grandi passi dalla stanza. Questa è fuori di testa, lo dico io. Nessuna bambina con un minimo di buon senso si comporterebbe così. E se non è fuori di testa è molto cattiva. Mi sa che Rachel aveva ragione fin dall'inizio, ma ormai ci sono dentro e non posso più tornare indietro. Fu una pessima mattina. Marilla lavorò come una forsennata e quando non riuscì a trovare altro da fare, si mise a strofinare il pavimento della veranda e gli scaffali del piccolo caseificio. Né la veranda né le scaffalature ne avevano bisogno, ma Marilla sì. Dopodiché uscì e pulì il cortile. Quando il pranzo fu pronto, andò ai piedi delle scale e chiamò Anna. Dalla balaustra al piano di sopra si affacciò con aria tragica, una faccia bagnata di lacrime. Scendi a mangiare, Anna. Non voglio niente, Marilla, rispose la bambina singhiozzando. Non riuscirei a mandare giù nemmeno un boccone. Ho il cuore spezzato. Un giorno proverai un gran rimorso di coscienza per averlo infranto, ne sono sicura, Marilla, ma ti perdono. Quando sarà il momento, non dimenticare che ti ho perdonata. Però ti prego, non chiedermi di venire a mangiare, soprattutto maiale bollito e verdure. È un pasto così poco romantico quando si è immersi nel dolore. Esasperata, Marilla tornò in cucina e raccontò tutto a Matthew, il quale, messo in mezzo e combattuto tra il proprio senso di giustizia e la simpatia per Anna, era veramente sconsolato. Beh, ecco, sì, la bambina non avrebbe dovuto prendere la spilla, Marilla, né raccontare bugie sulla faccenda, ammise, contemplando accigliato il poco romantico piatto di maiale lesso e verdure cotte, quasi che anche lui, come Anna, lo considerasse un cibo inadatto ai momenti di crisi emotiva. Ma è talmente piccola ed è così speciale, non ti pare che impedirle di andare al picnic sia una punizione un po' troppo severa, sapendo quanto ci tiene? Matthew Cuthbert, non ho parole. Per quanto mi riguarda, sono stata fin troppo buona facendogliela passare così liscia. Oltretutto, non mi pare proprio che Anna abbia capito quanto si sia comportata male, e questo è ciò che mi preoccupa di più. Se si fosse dimostrata davvero pentita, la situazione non sarebbe così seria. E neppure tu sembri rendertene conto fino in fondo. Non c'è una volta che non trovi una qualche scusa per lei. E non credere che non ci abbia fatto caso. Sì, però è così piccola, insisté debolmente Matthew. E poi non è tutta colpa sua, Marilla. Non dimentichiamolo. Finora nessuno si era mai preoccupato della sua educazione. Beh, adesso qualcuno lo sta facendo, lo rimbeccò Marilla. Quella replica zittì il fratello, anche se non lo convinse. Il pranzo quel giorno fu davvero triste, cupo. L'unica presenza allegra fu quella di Jerry Boat, il ragazzo che lavorava come bracciante, ma Marilla si risentì per il suo buon umore, come se fosse un insulto personale. Dopo che ebbe lavato i piatti, impastato e messo a lievitare il pane e dato da mangiare alle galline, di colpo le tornò in mente che il lunedì prima si era accorta di un filo tirato nello scialle di Pizzo Nero, al ritorno dall'incontro con le signore del gruppo di assistenza parrocchiale. Le conveniva prenderlo per rammendarlo. Lo scialle era in una scatola all'interno del suo baule, in camera. Mentre lo tirava fuori, un raggio di sole, passando attraverso i rampicanti che crescevano fitti fuori dalla finestra, colpì un oggetto impigliato al filo. Un oggetto che brillò, proiettando intorno a sé un bagliore sfaccettato di luce viola. Marilla lo prese e trattenne il fiato. Era la sua spilla di ametiste, rimasta agganciata a un occhiello del pizzo con lo spuntone della chiusura. «Oh, santa pace!» mormorò allibita. «Ma come? Guarda dov'era la mia spilla, quando io credevo che fosse finita in fondo allo stagno dei berri!» «Allora perché la bambina mi ha detto che l'aveva persa lei? A questo punto mi tocca credere che Green Gables sia un luogo stregato?» Però mi viene in mente adesso che lunedì pomeriggio, quando mi sono tolta lo scialle, l'ho appoggiato per un attimo sul cassettone. Evidentemente la spilla si è impigliata al pizzo. Bene. Marilla salì subito in mansarda con la spilla in mano. Anna aveva ormai pianto tutte le sue lacrime ed era seduta vicino alla finestra con aria avvilita. «Anna Shirley», disse Marilla in tono solenne, «ho appena trovato la spilla impigliata nello scialle di Pizzo Nero. Quindi voglio sapere che cosa significava tutta quella storia che mi hai raccontato stamattina». «Il fatto è che dovevo stare chiusa qui dentro finché non confessavo. Così hai detto», spiegò Anna con tono stanco. «Per questo ho deciso di fare come volevi tu, perché ci tenevo troppo a partecipare al picnic. Ieri sera, quando sono andata a letto, ho cercato di rendere la confessione più interessante che potevo. Poi me la sono ripetuta a mente un sacco di volte per non dimenticarla, però tu hai deciso che al picnic non ci potevo andare lo stesso, quindi è stato tutto inutile». Suo malgrado, Marilla scoppiò a ridere, ma le rimordeva la coscienza. «Anna, li batti proprio tutti, ma io avevo torto, adesso l'ho capito. Non avrei dovuto dubitare della tua parola, visto che non mi avevi mai raccontato bugie. Certo, non avresti dovuto confessare una cosa che non avevi fatto. Hai sbagliato, anche se sono stata io a spingerti a farlo. Perciò, se tu mi perdoni, Anna, io perdono te e ricominciamo da capo. E ora, preparati per andare al picnic». La bambina scattò in piedi come una molla. «Oh, Marilla, non è troppo tardi?» «No, sono soltanto le 2. Si saranno appena riuniti e ci vorrà un'altra ora buona prima che comincino la merenda. Lavati la faccia, pettinati e mettiti il vestito di percale. Intanto io ti preparo il cestino. Abbiamo in casa tante cose già pronte da mangiare. Poi dico a Jerry di attaccare la cavalla al calesse e accompagnarti al picnic». «Oh, Marilla!» esclamò Anna, volando verso il portacatino. 5 minuti fa ero talmente disperata che desideravo di non essere mai nata. E ora? Beh, non farei cambio di posto nemmeno con un angelo». Quella sera, un'Anna perfettamente soddisfatta e completamente esausta tornò a Green Gables in uno stato di beatitudine indescrivibile. «Oh, Marilla, ho passato un pomeriggio squisito». «Squisito è una parola nuova che ho imparato oggi, sai? L'ho sentita usare da Mary Alice Bell. Non ti sembra davvero espressiva?» «È stato tutto delizioso. Abbiamo fatto una buonissima merenda e poi il signor Harmon... Andrews ci ha portato a fare un giro sul lago delle acque scintillanti, 6 alla volta. E Jane Andrews per un pelo non è caduta dalla barca. Si era sporta per cogliere delle ninfee e se il signor Andrews non l'avesse presa al volo per il fiocco del vestito sarebbe finita in acqua e forse sarebbe affogata. Vorrei che fosse capitato a me, sarebbe stata un'esperienza così romantica. Sai che storia fantastica da raccontare? Dopo abbiamo mangiato il gelato. Guarda, mi mancano le parole per descrivere quel gelato, Marilla, ma ti assicuro che era sublime». Quella sera, seduta vicino al cestino da cucito, Marilla raccontò a Matthew tutta la vicenda. Ho sbagliato, lo ammetto, concluse con sincerità. Però ho imparato una lezione. Mi viene da ridere se ripenso alla confessione di Anna, anche se forse non dovrei, perché era una bugia dalla prima all'ultima parola. Eppure mi sembra meno grave di quanto sarebbe stata l'altra, in qualche modo. E comunque sono io la responsabile del suo comportamento. Sotto certi aspetti quella bambina è difficile da capire, ma credo che verrà su bene. E una cosa è sicura. Non ci si annoierà mai se ci sarà lei in circolazione.